Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Buon anno e ben ritrovati anche da Mirko Cavallin. Buon anno, anche se ci siamo lasciati appena pochi giorni fa, agli amici dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, col presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori, oltre che augurare alla redazione e a tutti un buon 2016. Speriamo buono, sicuramente è una buona notizia quando i prezzi calano, quelli del carburante alla pompa, benzina, diesel, insomma sono continuati a calare, forse non come dovuto, però certamente un dato positivo. Con il primo di gennaio, e i più attenti anche prima di Capodanno avranno letto questa notizia, l'autorità per l'energia, che appunto fissa i prezzi a livello nazionale, almeno per una parte di quello che poi paghiamo in bolletta, ha deciso con il primo di gennaio di ridurre il costo. Parliamo di percentuali abbastanza minime, insomma, di intorno all'1% in meno. Questa, Carlo, è una buona notizia, ma bisogna poi aiutare i nostri amici ascoltatori a leggerla bene. Sì, è una buona notizia per, come primo appuntamento del 2016, certamente, perché ricordiamo che la bolletta dell'energia elettrica registra un calo del meno 1,2%, mentre quella del gas meno 3,3%, prevedendo un risparmio per una famiglia media di circa 60 euro all'anno. Certamente un abbassamento, detta per il nostro contenuto, relativamente a quello che è il prezzo delle materie prime e del petrolio, in particolar modo, che invece ha subito delle variazioni molto più significative, e quindi ci auguriamo che questo andamento possa essere rivalutato più avanti, perché certamente ancora insignificante rispetto a quello che può essere un dato che a nostro avviso dovrebbe essere almeno del 10%. Quindi si paga ancora troppo, a vostro parere. Ricordiamo tra l'altro un'altra cosa, Carlo, che questa decisione dell'autorità appunto per l'energia e per il gas è periodica, cioè ogni 3 mesi, 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre, appunto, i prezzi vengono adeguati, ed è un prezzo che poi vale per tutti coloro che alla fine vendono energia elettrica e vendono il gas. Questo prezzo però è solo una parte di quello che alla fine troviamo in bolletta. Ma innanzitutto, Mirko, c'è da dire, giusto a conferma del tuo ragionamento, che le variazioni vengono fatte proprio sul consumo reale, non sulle imposte che vanno a valutare poi i costi finali delle bollette. Quindi parliamo proprio della componente attiva, quella legata strettamente al consumo. Quindi certamente i consumi non vengono calcolati sul costo complessivo della bolletta, ma solo su una parte, e in questo caso quindi anche gli abbassamenti vengono così rivalutati o rivisti, o meglio ancora contenuti rispetto a quello che può essere un calcolo approssimativo che qualcuno può fare già sentendoci in questo momento. C'è da dire che, come hai detto te, questi aggiornamenti vengono fatti trimestralmente, però riguarda anche chi ha un piano tariffario in regime di tutela, perché ricordiamo anche che chi si trova in un regime di liberalizzazione il prezzo lo concorda direttamente con il gestore, e questo non segue l'andamento dei prezzi che noi stiamo dando, o quello che viene dato appunto ogni 3 mesi. Certamente un dato comunque, come ripetiamo, a nostro avviso molto contenuto, ci aspettavamo qualcosa di più, e sicuramente quando si parla di ridurre le bollette, questo è il momento più utile per poter far risparmiare qualcosina in una fase di stagione in cui gli impianti di riscaldamento stanno, insomma, funzionando a pieno regime. Quindi, come al solito, ci troviamo a parlare di andamenti che non sono mai proprio orientati verso un vero interesse rivolto alle famiglie e ai consumatori in questo momento. Dicevamo le varie voci in bolletta, e un'altra novità di questo mese di gennaio è la cosiddetta bolletta 2.0, che dovrebbe essere non solo più semplice da leggere, perché adesso sfido chiunque a interpretare una bolletta del gas o dell'energia elettrica, non solo più semplice ma anche più chiara, perché le voci dovrebbero essere, aspettiamo di vedere le prime bollette magari a fine mese o con il mese di febbraio, ma dovrebbero essere più semplici. Anche questo, insomma, dopo anni di lotta anche dell'associazione di consumatori, ci si sta arrivando. Sì, anche questa è una bella notizia, e come sottolinea l'Authority, sarà proprio all'inizio del 2016 l'adeguamento a quelle che sono proprio le richieste di rendere le bollette più comprensibili, e bollette che permetteranno quindi al consumatore di appunto rendersi conto veramente di quello che sono le voci che le compongono, rispetto a quelle che oggi sono un'infinità di pagine che alla fine non si riesce mai a venire a capo. Ricordiamo che uno dei problemi più comuni riguardano proprio l'incomprensibilità che queste bollette hanno, e le casistiche che noi trattiamo all'Adico sono proprio quelle di andare a ricostruire le bollette e spiegare come anche queste letture devono essere interpretate. Poi, per quanto riguarda l'abbassamento, appunto ho accennato prima al discorso del mercato libero rispetto a un mercato invece di maggior tutela. Ricordiamo che quest'ultimo, quello di maggior tutela, normalmente è determinato in fasce biorarie, per cui le persone durante sabato e domenica o di sera consumano di meno rispetto ai giorni che si trovano a pagare di più, rispetto a quello che invece è un mercato volto alla liberalizzazione, per cui, come avviene nella telefonia, il consumatore deve cercare quella che è un po' l'offerta più conveniente alle sue esigenze, e in base al quale poi determinare quale fornitore può essere più utile rispetto a un altro. Ma certamente appunto anche il prezzo in questo caso può avere delle variazioni significative tra un gestore e l'altro. Ultima novità, e la diciamo così come corona finale di questa puntata ricca di buone notizie, è che chi si fa arrivare la bolletta elettronica via mail, quindi non fa stampare la carta, risparmierà anche in questo caso qualche euro per ogni bolletta, in tempi in cui siamo tutti più attenti all'ambiente, o dovremmo esserlo. Anche questo è un'ulteriore buona notizia. Credo che di bollette torneremo a parlarne, magari per capire effettivamente come sarà fatta questa nuova bolletta nelle prossime settimane. Intanto l'appuntamento con l'Adico è fra qualche giorno, anche sul sito associazionedifesaconsumatori.it. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buona giornata. Grazie a te Mirko, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.